Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 17 aprile 2015. Il container tecnologico Maarifa porta l'ICT e la formazione a distanza nelle terre aride africane. Si chiamano Maarifa Center. Sono dei semplici container collocati in villaggi sperduti del Kenya, della Tanzania e dell'Uganda. Sono stati lanciati anni fa dalla ONG ALIN, Arid Lands Information Network, rete per le terre aride. All'interno abbastanza tecnologia e connessione per mettere in rete contadini e pastori di zone altrimenti irraggiungibili. E così si fa formazione, si ottengono indicazioni climatiche essenziali, si imparano nuove tecniche. Grazie ai Maarifa Center sono anche nate nuove start-up e giovani testate locali. Si lavora sulla cittadinanza, si promuove prevenzione sanitaria. Solo 3 anni fa i Maarifa Center erano 12, ora siamo a quota 150 e altrettante comunità sono meno isolate. Fin qui la notizia del 17 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Il progetto dei Maarifa Center, che abbiamo scoperto grazie a unimondo.org, ha raggiunto finora 12 container operativi. Ma sul loro sviluppo c'è un ostacolo, una connessione costosa o addirittura assente. Vincenzo Giardina, giornalista dell'agenzia MISNA. Fisicamente sono dei container e ci sono degli operatori, dei formatori che lavorano con le comunità che hanno accesso a questi container e offrono corsi di formazione, accesso internet e comunque possibilità di accedere a contenuti rilevanti per le loro attività. Spesso sono contadini, quindi per esempio come ottenere raccolti migliori, o addirittura ci sono state in delle zone, per esempio del Kenya sud-occidentale, dove sono nati dei gruppi di, diciamo, sorta di agenzie turistiche locali che hanno un po' sfruttato le possibilità aperte da questa porta digitale, no, portata dai container. L'aspetto filosofico appunto è quello del portare la globalizzazione anche tecnologica in zone che finora ancora sono rimaste ai margini, sono zone dove spesso la corrente elettrica è un problema, quindi questo dove ci sono i generatori per molte ore al giorno, insomma dove ci sono delle strozzature ci sono ancora. D'altra parte appunto la connessione internet è difficile, perché appunto il Kenya è uno dei paesi africani, tolto il Sudafrica e forse anche l'Egitto, che dal punto di vista di internet è più avanti. Nonostante questo, i cavi a fibra ottica, quindi la banda larga, sono disponibili soltanto in alcune zone di Nairobi e di Mombasa, che sono le grandi città, e nelle zone dove opera questa ALIN, questo network per le terre aride, non c'è, quindi non ci sono i cavi a fibra ottica, si lavora su sistemi GSM o molto spesso su connessioni satellitari che hanno costi molto alti. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.